La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci ritrovati, La Rosa Purpurea, come ogni sabato alle 18, per parlare di tutto il cinema che c'è in sala e non in Italia e non oggi, perché è la settimana in cui è cominciato il Festival di Cannes, tra l'altro con un clima, un tempo non esattamente esaltante, però insomma, Cannes è sempre Cannes, festival con grandissime firme, grandissimi nomi. Ne parleremo adesso brevemente, prima di entrare poi nel vivo delle uscite in sala. Ne parleremo anche la prossima settimana, quando il festival sarà lì per concludersi. E allora andiamo subito a Cannes, dove c'è in collegamento Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori dalla Croisette. Ecco, dalla Croisette, bravo, beato te. No, ma io ho fatto tanti anni di Festival di Cannes, mi ricordo che tornavo e mi dicevano: ah, beato te, non sanno, Giulio, non sanno che cos'è, quale tritacarne dalle 7 del mattino alla 1 di notte sia il Festival di Cannes. So che c'è di peggio, so che magari andare in miniera alle 5 del mattino è peggio, però insomma, ti dico, noi sappiamo che il Festival di Cannes è veramente una manifestazione a chilometri illimitato, sostanzialmente si va avanti e indietro. Consuma i corpi ma apre la mente, assolutamente, diciamo. E quest'anno mi pare che le cose siano cominciate piuttosto bene anche sotto il profilo della qualità della proposta. Sentiamo subito allora insieme una clip, perché l'ouverture è stata data al grande Woody Allen. Questa è la clip di Café Society. Hello, come in, sit. Christ, man, it's all about ego, this whole town runs on ego. Yeah, I'm Bobby. Bonnie, come in here, can you? Bonnie, this is my nephew, Bobby. Howard's a two-time Academy Award winner. Wow, congratulations. Ovviamente clip in lingua originale, perché il film è in prima mondiale, come tutti i film che arrivano al Festival di Cannes. Un minutino, ci dici se ti è piaciuto, Giulio, questo Café Society? Allora, il film, come sempre, divide, come sempre l'ultimo Allen, divide molto tra detrattori e amanti. Sempre molto benevoli nei confronti di Allen. Il film è un triangolo amoroso a Hollywood negli anni 30 tra un newyorkese ebreo, la segretaria di un potente producer hollywoodiano e quest'ultimo che è lo zio facoltoso del primo e l'amante della seconda. È un Woody Allen che, come sempre capita ultimamente, asciuga il cinema sempre di più a una sorta di parabola morale, con tutto un ritorno di temi e di figure che ritornano sempre più frequentemente nel suo cinema. Qui c'è il cruccio etico, lo scontro tra l'idea di al di là del cristianesimo e il mistero tutto-terreno dell'ebraismo, e un sogno d'amore che rimane tale in una fabbrica dei sogni che crea soprattutto illusioni e delusioni. È un film che io, che faccio parte un po' dei detrattori dell'ultimo periodo di Allen, non ho amato particolarmente, ma che so che è stato molto molto apprezzato da chi invece continua a sostenerlo. La cosa veramente nuova però per questo film è il fatto che è il primo film girato in digitale da Allen, con una fotografia veramente incredibile di Vittorio Storaro. Ecco, invece, a proposito di Italia, Giulio, pare che insomma abbia raccolto applausi convinti la proiezione di Fai bei sogni di Marco Bellocchio, che non era in concorso. No, esatto, era l'apertura della Kenzen, una sezione parallela del Festival di Cannes, e vedere un regista così importante e così amato in Francia come Marco Bellocchio mettersi in gioco in una sezione parallela fa sicuramente onore a questo maestro che continua a mettersi veramente in gioco. Questo film è veramente l'esatto opposto di Sangue del mio sangue, il film che aveva presentato a Venezia, che era uno scherzo gioioso, molto asciutto e pieno di misteri e di temi del suo cinema. Qui invece abbiamo un film che è un adattamento da un romanzo, Fai bei sogni, appunto di Gramellini, la storia di un uomo e della sua fatica a elaborare il lutto della madre, mentre la storia d'Italia, e non solo, perché c'è anche una parentesi nella Jugoslavia in guerra, passa attraverso, appunto, si rispecchia nella storia di quest'uomo. È un film strano per Bellocchio, perché è un film in cui lui si adatta a una storia d'altri, però sembra riconoscersi e trovare in questa storia tutti i suoi temi. È un film molto asciutto, anche qui pieno di rime interne che creano tutto un senso ulteriore alle immagini, tutto un senso di profondità psicanalitica, simbolica, anche se è un film, come dire, molto meno ermetico di certi suoi episodi, ed è un film assolutamente, diciamo, popolare, potrebbe essere un film come tanti, ad esempio, di prodotti dalla Rai, no? Quindi per un pubblico largo, diciamo. È un film che ha diviso in realtà la stampa, pare che appunto la proiezione stampa, io non l'ho visto in proiezione stampa, l'abbia molto molto apprezzato, la stampa italiana già un po' rumoreggia, vedremo poi quali saranno i risultati. E allora, grazie Giulio, buon lavoro sulla Croisette, magari ci sentiamo la prossima settimana per fare un bilancio a pochi minuti dall'assegnazione del palmarès. Assolutamente sì, molto volentieri. E allora, grazie a Giulio San Giorgio di Film TV che ritroveremo alla fine della nostra trasmissione, come sempre, con le segnalazioni dai palinsesti televisivi della prossima settimana. Adesso viabilità, poi torniamo insieme, cominciamo ad analizzare i film che escono in sala, proprio partendo dal Festival di Cannes, nei quali a un certain regard è stato presentato il film con Scamarcio, che si intitola Pericle il Nero, e Riccardo Scamarcio sarà nostro ospite. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma, rimaniamo in un certo senso al Festival di Cannes, perché da Cannes rimbalza nelle sale cinematografiche italiane un film italiano che si intitola Pericle il Nero, diretto da Stefano Mordini, era nella sezione Un Certain Regard lì a Cannes, è protagonista Riccardo Scamarcio. Noi abbiamo inviato la nostra Chiara Pizzimenti a vederlo per noi. Io mi chiamo Pericle Scalzone. Io di mestiere faccio il culo alla gente. Lo fa letteralmente. Non è una metafora quella che utilizza Pericle, trentenne da sempre al servizio della Camorra, trasferita in Belgio. Lui crede e obbedisce al suo boss, Don Luigi Pizza. Il nome viene dal business che gestisce. Un errore gli mostrerà quanto poco valga lui per il mondo in cui vive. Ma che l'hai ammazzata? Faccio come un altro guai. Quella era la sorella di un quartiere e noi la dovevamo proteggere, capito? Adesso sai che puoi fare, scompare, levati di mezzo. Don Luigi, ma io che dovevo fare? Tu non dovevi proprio nascere. La fuga dal Belgio a Calais lo porta a ripensare l'intera sua esistenza e a crearsi, almeno nella testa, la possibilità di una vita diversa. Non ci sono mai stato dentro casa di una donna. Certe volte però mi sono immaginato che anch'io potevo tenere famiglia. Così per gioco, accompagnare i figli a scuola. Mi inventavo le facce di mia moglie, delle bambine. Pericle il Nero è un romanzo di Giuseppe Ferrandino, pubblicato ormai 20 anni fa, da cui nasce il film che vede Riccardo Scamarcio nel ruolo di protagonista e produttore. Stefano Mordini è il regista e così inserisce questo film nel suo percorso. Io vedo che anche in questo progetto qui c'è il racconto e la paura di rimanere soli, ed è un po' il racconto che ho fatto in tutti i miei film, La provincia meccanica, Acciaio. E quindi anche questo, insomma. La sceneggiatura è un lavoro a più mani, ne viene un noir umano. Nel momento in cui è in trappola, il nero Pericle esce da un'esistenza che era prigione e torna ai pensieri migliori. Ho solo una foto di mia madre. Me l'ha data zia Nenè. Mi ha detto tienila tu. La devi ricordare sempre così, tua madre, quando era bella, quando stava bene. Però con la maglia rosa me la ricordo. Me la ricordo perché le piaceva. Allora io sulla tomba ci faccio mettere proprio le rose, la cosa che mi fa contento. Perché mi sembra che la faccia sorridere anche la morte. È sgradevole all'apparenza il Pericle del bravo Scamarcio, dentro è invece malinconico e sognatore, un uomo che ha bisogno d'amore e ci si affeziona a lui man mano che la sua vicenda si interiorizza. Secondo me è molto bello, anzi io avrei voluto che andasse un pochino avanti dopo il finale per spiegare, insomma, altre cose. A me molto, sì, mi è piaciuto. Però dovrei pensarci, però come impressione iniziale è ottima. Sì, mi è piaciuto, però sembrava che mancasse qualche cosa per avere un po' più di empatia con i vari personaggi. Molto, molto. Bello, tosto, bello, interessante. E la nostra Chiara Pizzimenti ha intervistato il protagonista del film, Riccardo Scamarcio. Sentiamo. L'avevo letto questo romanzo molti anni fa, quando Abel Ferrara mi aveva proposto di fare questo film con lui. Poi il film non si è più fatto e quindi mi è rimasto questo desiderio di voler fare questo film, ma avevo abbandonato, insomma, le speranze. A un certo punto poi ho incontrato Stefano, ho visto il suo film Acciaio e ci siamo così. Lui mi ha detto: ma perché non facciamo un film insieme? Gli ho detto: vabbè, leggi questo libro, secondo me. E da così è nato ecco, un po' scherzando, e poi a un certo punto ci siamo messi a lavorare e abbiamo cominciato veramente a giocare, ecco, e quindi non abbiamo più scherzato, ecco, abbiamo giocato. A giocare con il noir, con il nero, è un romanzo e probabilmente un film molto scuro. Non userei questo aggettivo, piuttosto direi un film livido, e che ha un personaggio invece che si presenta come un personaggio scuro, ambiguo, repellente anche, e poi invece pian piano si scopre che dietro questo involucro così brutto e poco piacevole c'è invece un uomo capace di scoprirsi lui stesso, capace di amare, ecco, e di essere amato soprattutto. Era Napoli nel libro, qui invece siamo in Belgio. L'avete trasportato perché? L'abbiamo trasportato in Belgio un po' perché, diciamo, volevamo prendere un po' una distanza da questa connotazione che Napoli in qualche modo ha, proprio si è presa da questi ultimi film che sono stati fatti su Napoli. Ma non soltanto per questo, quanto piuttosto perché l'ambientazione di Liegi, del Belgio, comunque di una condizione di Nord Europa, ci sembrava potesse dare un'atmosfera più giusta e un contesto più giusto a raccontare non tanto i criminali e il lato criminale, quanto piuttosto appunto il movimento emotivo interiore di un uomo disperato, senza disperazione. Non è un romanzo criminale, quindi, è tutt'altra cosa. Non è un romanzo criminale, è un'altra cosa, certamente. Cioè, i criminali non sono fichi, ok? Cioè, qui raccontiamo i criminali nella loro miseria, ecco. A Cannes, invece, andate come unici italiani. Un impegno, un peso? No, per noi un peso no, perché, diciamo, noi siamo come la squadra che inglese con la quale ha vinto Ranieri, cioè a noi non ci davano, i bookmakers ci davano proprio per spacciati, quindi noi arriviamo a Cannes a mani basse e con un sorriso a 56 denti, cioè perché la nostra vittoria c'è già, ecco, esserci, poi dopodiché insomma quello che accade accade. Riccardo Scamarcio alla Rosa Purpura, al Festival di Cannes c'è Pericle il Nero anche nelle sale italiane. È arrivato il momento di giocare insieme, il primo dei nostri momenti game. Di solito lo sapete, vi facciamo ascoltare due clip di un film misterioso fino a quando qualcuno di voi non lo indovina, per vincere i Blu-ray di quel film. Stavolta vogliamo procedere in maniera un po' anomala, perché siccome il premio è di quelli importanti e soprattutto si tratta di un autore tutto da scoprire, non è tanto il tema farvi ascoltare una clip e indovinare di che film si tratta, ma giocare con la vostra cultura su questo autore. Stiamo parlando di Yasuhiro Ozu, un grandissimo, grandissimo maestro del cinema giapponese e mondiale, che ha avuto la sua attività maggiore fra gli anni 50 e 60, sei straordinari capolavori che adesso rivivono in un cofanetto in Blu-ray o anche in DVD. Noi giocheremo con il DVD, che è una operazione tra l'altro molto interessante a cui la Rosa Purpura in qualche modo ha partecipato, perché l'estate scorsa, quando questi film di Yasuhiro Ozu uscirono restaurati nelle sale italiane, tra l'altro con un grandissimo successo, con teniture anche più lunghe del previsto, ebbene noi qua vi raccontavamo ogni settimana, forse qualcuno lo ricorderà, il restauro di questi straordinari film, che adesso in quella versione restaurata e tra l'altro con un libro appunto su Ozu, escono con un cofanetto. Allora, cosa vi chiediamo per provare a vincerlo? Vi chiediamo il titolo di due film, almeno due film di Yasuhiro Ozu. Dovete scrivercelo alla Rosa Purpura @radio24.it, il titolo di due film di Ozu, per provare, i più veloci di voi come sempre, ad accaparrarvi il cofanetto di questo straordinario autore, che la prossima volta recensiremo con dovizia di particolari. Veniamo ai fatti di casa nostra e cominciamo con una commedia che si intitola Un poliziotto ancora in prova. Il tuo partner sposerà tua sorella? Poliziotto buono, poliziotto sexy? Cory è la migliore wedding planner d'Atlanta. Quello che devi fare? Io non mi faccio intimidire da te! Che cosa vuoi fare? Voglio crescere! Mi sono stancato! Ciao! A quanto andava il ventilatore? tutti i nuovi spacciatori d'Atlanta vengono riforniti da Antonio Pope di Miami. Portatemi qualcosa su questo tizio. 2 giorni, al massimo. Forma una squadra e sistema la cosa. Miami, James, io vengo! Torna in tempo per fare di me la signora Blackhammer. Le suggestioni sonore del film Un poliziotto ancora in prova di Tim Story con Ken Jeong, Ice Cube, Kevin Hart, Olivia Moon, un film che è il sequel di un successo clamoroso e forse anche abbastanza inatteso di un paio di stagioni fa. Boris Sollazzo in collegamento con noi, lo salutiamo. Ciao Boris. Salve Franco a tutti gli ascoltatori. Allora, anche qui poliziotto bravo, poliziotto cattivo, una coppia che ha segnato successo soprattutto negli Stati Uniti con il primo film, ma ancora una volta forse l'idea che tante volte il sequel sia quasi una condanna. Ma il sequel è una condanna, soprattutto se anche l'originale, il film che inizia, speriamo quella che non sia una saga, non è che fosse proprio un bijou, insomma. Per me fu una condanna anche quello, fu tranquillamente accettato anche per alcune scene brillanti da un pubblico che probabilmente in quel momento non aveva molto di meglio da vedere, e anche per, devo dire, quella unione tra Ice Cube e Kevin Hart, che è sicuramente anche adesso la cosa migliore del film, perché i due comunque hanno una certa empatia, hanno la capacità di incarnare questo buddy movie molto classico, no? In cui c'è più che il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, il poliziotto competente, quello cialtrone. Addirittura qui si viene ancora più dichiarato l'intento di voler raccontare un incrocio tra una commedia poliziesca, la Beverly Hills Cop, e una slapstick comedy, con appunto quello più competente che è addirittura costretto dalla sorella a prendersi in carico per una seconda possibilità il cialtrone, il buffone del gruppo, che però alla Kung Fu Panda poi potrà sempre trovare il modo di essere utile, magari involontariamente, ma potrà trovare il modo di essere utile. Il problema di questo film non è tanto se faccia ridere o meno, in alcuni momenti riesce nell'intento di strappare un sorriso allo spettatore. Il problema è che, ok, l'intrattenimento non particolarmente intelligente, ma quando chiede la spesa minima di neuroni possibile all'interno di una sala cinematografica, forse esagera. Ci dice nei primi 5 minuti quale sarà la storia, chi sarà il cattivo, chi sarà il personaggio ponte che potrà permettere alla storia di andare dove capiamo subito che andrà a finire. Ci dice quasi anche tutte le battute che ci faranno ridere, tutte le situazioni che ci faranno ridere, e insomma davvero ci vuole pochissima attenzione. È quel classico film che tu potresti, non si dovrebbe mai fare, vedere controllando i messaggi del cellulare che ti sono arrivati magari durante le ore di lavoro, perché perderti anche 10 o 20 minuti non farebbe perdere di intensità minimamente alla fruizione del film. Quindi è davvero uno di quei film che dovete andare a vedere se siete tanto, tanto, tanto, tanto stanchi e non volete faticare più di tanto. E allora, questo è Un poliziotto ancora in prova. Noi a questo punto diamo la linea alla regia. Fra poco torniamo insieme per parlare di George Clooney e Julia Roberts, che racconteremo nel loro nuovo film Money Monster. Fra poco. La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, la rosa purpurea. Vi abbiamo annunciato George Clooney e Julia Roberts, ebbene sono qui con noi, chiaramente in maniera virtuale, perché parliamo di Money Monster, l'altra faccia del denaro, un altro dei film che arrivano in sala in questo fine settimana, diretto da Jodie Foster, solo regista in questo caso, che racconta un tema, entra in un tema che è stato molto presente nel cinema degli ultimi anni, quello insomma della grande crisi finanziaria e più in generale delle, diciamo così, delle esagerazioni, delle truffe anche molto spesso, delle frodi perpetrate ai danni dei piccoli azionisti, soprattutto da parte di agenti, di fondi, di mercato senza scrupoli. È il caso appunto di questo film che racconta la storia di un conduttore di uno show televisivo che è appunto George Clooney, uno show che si occupa di finanza ma lo fa molto all'americana, con pieno di frizzi lazzi, un programma anche molto divertente che commenta però con arguzia, con il graffio giusto, i fatti della borsa, e soprattutto dà dei consigli dove investire, dove non investire, dove disinvestire. Ebbene, questo conduttore Lee Gates una mattina, che sembra una mattina come le altre, sta per affrontare un tema molto molto spinoso. Mi chiamo Lee Gates, benvenuti a Money Monster. Chi non rischia nulla, nulla guadagna. È meglio vendere? È meglio scaricare? Fuori le palle, fate gli uomini! Chi è quel tipo sulla 2? Chi si vuole ragnare? Sentiamo. Chi è? Qualcuno lo conosce? È una questione sindacale? Interrompi! Voglio le telecamere accese! Ti accendi le telecamere, parti! Rimandaci in diretta! Che faccio? Forza, accendi! Torniamo in onda! Sei venuto qui in cerca di risposte e meriti delle risposte. Boris, Money Monster ha sicuramente delle grandi potenzialità perché parte con un'idea di fondo molto forte, con degli attori molto in gamba, con una regia pulita, senza troppi fronzoli. Forse però il difetto di questo film, non so se sei d'accordo, è quello a volte di semplificare un po' troppo, cioè di arrivare a voler raccontare le cose, tra l'altro sempre un po' in bilico fra il tono del dramma, action movie e della commedia, però, come dire, cercando di rimasticare la materia e di renderla al pubblico così già masticata, e questo forse un pochino annacqua anche il potenziale del film. Ma è la sua forza e la sua debolezza, secondo me, perché noi ci troviamo, diciamo, nella terza era dei film economici post crisi 2009, cioè prima ci hanno voluto raccontare quanto e quando ci hanno fregati, scusate il termine gergale, poi come lo hanno fatto, e penso alla grande scommessa, e adesso ci vogliono dire anche chi. Ovviamente quando si punta il dito su vittime e carnefici inevitabilmente finisci per semplificare, finisci per raccontare un buono che magari ha una pistola e minaccia di ammazzare uno studio televisivo intero, e questo paradosso chiaramente è molto potente, e hai un cattivo che invece veste bene, ha un sorriso simpatico. E secondo me Jodie Foster prende dalla sua capacità di regia quella naturale tendenza che aveva anche come attrice, cioè di essere allo stesso tempo raffinata e popolare, di piacere alle major e piacere anche agli autori, proprio perché ha un innato talento nel dirti come stanno le cose fuori da ogni fronzolo. È vero che l'economia non si può ridurre, come dici tu, le cose in effetti stanno così. Però è anche vero che di fronte per esempio a film come La Grande Scommessa, in cui ti viene detto che è tutto troppo complicato perché tu lo capisca realmente, forse è necessario anche qualcuno che ti dica invece guarda che le cose in fondo sono fatte da uomini e sono una partita a carte abbastanza leggibile, sono una partita a scacchi in cui se sai chi sono le pedine e chi sono la regina, allora è tutto più facile da capire. Ovviamente forse bisognerebbe trovare una via di mezzo in questa situazione, né essere quasi incomprensibili con La Grande Scommessa, anche se è un grande film, proprio perché rimane su quella linea tra l'incomprensibilità e questo eccessivo semplicismo, però forse ci aiuta anche questo a capire in mezzo a cosa siamo capitati, quanti world cambi ci sono nel mondo e quanto ci hanno fatto male. A mio parere quel tono tra il grottesco e il drammatico è in fondo forse il tono più interessante, l'aspetto più interessante del film, perché di fatto ci racconta che noi viviamo in una situazione che è tragicomica, in cui un capitalismo truccato ci obbliga ad essere o vittime designate o beneficiati inconsapevoli. Quello che ci dice Lee Gates è che sostanzialmente sia quando le cose vanno bene, soprattutto World Cambi, interpretato maluccio devo dire da Dominic West, è che sia quando guadagniamo il 18% sui titoli, sia quando perdiamo tutto, noi non sappiamo bene che cosa sta succedendo. Il vero difetto del film secondo me sta nel finale, quando abbandona quel linguaggio ibrido tra grottesco e drammatico, quando comincia a prendersi sul serio, abbandona qualsiasi parametro di credibilità e in fondo diventa un film, una sorta di favola nera che il personaggio di George Clooney non riesce a reggere, perché la sua forza è proprio essere un cialtrone e servo sciocco che si accorge di essere non tanto servo e neanche tanto sciocco, e perché il protagonista, questo ragazzo perduto nel suo fallimento, non ha il carisma giusto per trattenerlo. Devo dire, molto interessanti invece le parti femminili. È bravissima Julia Roberts, che ha imparato a donare quel suo carisma naturale e ora gioca anche di sottrazione. Brava anche la Balfe, Cariona Balfe, nella parte dell'ufficio stampa dei cattivi, e straordinaria Emily Mead, che ha una sola scena, tra l'altro mediata da uno schermo, ma che forse dà veramente la cifra del film, nella parte della moglie non proprio come dire, accondiscendente dell'attentatore. È un film alla fine da 7, poteva secondo me essere un grandissimo film. È un buon film che sembra preso di peso dagli anni 70. Allora, un'altra parentesi su Ozu. Vi ricordo ancora il nostro game anomalo di questa settimana, la rosa purpurea a @radio24.it. Scriveteci il vostro nome, cognome e indirizzo, ma soprattutto i titoli di almeno due film del grande maestro giapponese Yasuhiro Ozu, per provare a vincere i due cofanetti che abbiamo a disposizione, i cui vincitori sveleremo dalla prossima settimana. Andiamo avanti, Boris. C'è poco tempo, ma c'è un film di cui voglio assolutamente parlare, che si intitola Viaggio da paura. Ma quindi dovremmo partire all'improvviso? Prendiamo la strada più breve, dritti a Bay. Oppure prendere la strada panoramica. Sicuro che non ci perdiamo? No. A destra o a sinistra? Adil l'ha mandata poco prima di morire. Non l'ho richiamato. Commedia araba per Viaggio da paura di Ali Mostafa, un regista che tra l'altro ha una provenienza culturale e geografica mista, madre londinese, padre di Dubai. Un viaggio, un road movie, anche molto divertente in certi momenti, ci si vedono dentro pezzettini, spunti un po' alla Marrakesh Express, per raccontare la storia di tre amici che si ritrovano dopo tanto tempo per un fatto traumatico che li ha coinvolti, e che appunto intraprendono questo viaggio. C'è la capacità di ridere di un tema difficile come quello del disastro della guerra nei paesi arabi, e chiaramente viene in mente soprattutto la Siria, viene in mente tutto quello che riguarda poi il terrorismo e le sue conseguenze. Ma Viaggio da paura, Boris, è un film che funziona anche da solo, cioè anche senza le sue tematiche. È proprio un film che sta in piedi bene perché è realizzato bene. Sta in piedi bene perché è realizzato bene e perché sottintende quelle tematiche, non pretende di raccontarle, ma ci dice una cosa fondamentale, che forse un certo cinema territoriale deve imparare, cioè non sottostare al ricatto dell'attualità, non sottostare al motivo per cui determinate aree geografiche sono al centro dell'analisi internazionale. Quello che ci vuole raccontare Ali Mustafa, ed è geniale nella sua semplicità, è che la normalità esiste ovunque, esiste anche dove cadono le bombe, e lo fa non nascondendosi, perché il motivo per cui venne intrapreso questo viaggio è che questi tre amici, ormai diventati diversi, ormai con lavori molto occidentali, uno è un DJ che sta su Twitter con alterno successo, per dire, un programmer e via dicendo, si riuniscono pur non avendo più molto in comune, perché devono andare a un funerale, come spesso accade, anzi non devono andare a un funerale, devono ricordare un amico che è morto sotto un bombardamento. Basta questo per dirci dove siamo, chi sono e qual è il loro vissuto. Il resto è un on the road dei più classici. Tu secondo me hai fatto il riferimento più alto, cioè il sospetto quasi che Ali Mustafa l'abbia visto, tanti sono i punti di vicinanza tra i due film, ovvero Marrakesh Express, perché c'è la stessa felicità di racconto di quel Salvatores che si diverte anche a percorrere alcuni stereotipi proprio perché non ne è schiavo. Lo faceva Salvatores in Marrakesh Express, lo fa Ali Mustafa qua. Ne esce una commedia divertente, una commedia molto brillante, e un on the road che segue quel percorso narrativo che tutti gli on the road dovrebbero fare, cioè ogni volta che fai un viaggio il tuo bagaglio di esperienze aumenta man mano che compi dei chilometri, e probabilmente se il viaggio è bello anche la tua crescita, la tua maturazione e anche la maturazione delle relazioni che hai con i tuoi compagni di viaggio piano piano cresce o comunque si modifica. E lo stesso succede allo spettatore. Lo spettatore, man mano che li vede andare avanti verso il loro obiettivo, comincia a comprendere prima i personaggi, poi il paesaggio anche emotivo e politico in cui sono, per poi raggiungere la consapevolezza che appunto quei mestieri occidentali, quei ragazzi che sono molto simili a noi, potrebbero essere in mezzo a noi e non contro di noi. E allora, Viaggio da paura, assolutamente promosso nei nostri cinema, andatelo a cercare a questo punto, viabilità, e dopo la viabilità ci ritroviamo, c'è ancora una piccola chicca che è tornata, diciamo, nelle sale, dopo tanti anni, ma in una versione totalmente nuova, si tratta di Wild Salome di Al Pacino. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea. Come promesso, ci occupiamo di un film che è datato 2011, ma non è un caso, diciamo, di quelli in cui la distribuzione si è dimenticata, lo ha ripescato, eccetera. È proprio una grande volontà, anche perché la firma del regista è di quelle altisonanti, Al Pacino. Il cast dice Al Pacino, Jessica Chastain, che tra l'altro è stata praticamente lanciata da questo film. Il film è Wild Salome, fu presentato a Venezia nel 2011, ottenne un grande successo, poi però non uscì mai nella circuitazione delle sale. Adesso però è arrivato un intervento di rimontaggio, 6 minuti in meno, una fluidità ritrovata, e il film può uscire nelle sale. Da quando Oscar Wilde scrisse quest'opera, tante sono state le interpretazioni. Questa è una di esse. Perché di nuovo Salome? L'hai messa in scena già 2 volte. Quante produzioni hai fatto? Mi è sembrato di trovare un amico, qualcuno che volevo conoscere. Qualcuno che è stato profetico, perché in questa tragedia Oscar Wilde è come se conoscesse il suo destino. Oscar Wilde, la sua Salome, un'ossessione da parte di un uomo di teatro, che in questo caso appunto è Al Pacino, l'aveva già fatto con Looking for Richard, lo rifarà probabilmente Al Pacino, perché sta lavorando a nuovi progetti su Shakespeare in questo senso. Un film molto interessante, Boris, che ci rivelò ormai 5 anni fa una Jessica Chastain allora praticamente sconosciuta, e chi non ricorda La Danza dei 7 veli in quel film di una bellissima Jessica. Perché vederlo oggi, cosa è cambiato rispetto a 5 anni fa? Intanto perché dopo quella Danza dei 7 veli io sono diventato cardiopatico, quindi insomma potrete capire che livello di non solo sensualità ma anche emotività e potenza carismatica e recitativa c'è in questa ragazza. Conoscendola adesso e conoscendo il suo talento, avendo visto tutta una serie di film, vi renderete conto che incredibile esplosione di bravura fosse ancora all'inizio, e quanto forse sia stata normalizzata dall'entrata nel cinema che conta, e forse dovremmo recuperare quella Jessica Chastain. Poi perché Al Pacino, come Kevin Spacey, John Malkovich, sono uomini di cinema, straordinari attori, però con un'ossessione per il teatro che li porta spesso ad accettare ruoli anche non straordinari per potersi pagare il teatro. E qui viene raccontato in questa sorta di work in progress anche non solo l'ossessione per il teatro, ma quanto sia difficile farlo, quanto i soldi siano determinanti e quanto un uomo di creatività e d'arte debba fare i conti in questo mondo anche con il denaro. Poi perché non c'è niente di più bello di raccontare quanto è bello, ma anche pericoloso, perdere la testa, come fa Al Pacino nel voler fare un cinema, un film e una pièce contemporaneamente, o Salomè che appunto perde la testa per un profeta, che di fatto, ve lo sapete tutti, nel racconto biblico e anche di Oscar Wilde la testa la perde letteralmente. È un film di grandi passioni, è un film che ha la capacità di entrare e uscire da una storia e di fare crossover tra letteratura, cinema e teatro con grande abilità, anche grazie alla bravura di Pacino come regista e come attore, e secondo me qui lo fa meglio di quando affrontava Shakespeare, con più maturità e con più forza, perché secondo me è una lezione d'arte, al di là di tutto, di recitazione, di regia, di racconto nel vero senso della parola, e anche di quanto amore e dolore ci sia nel portare avanti un lavoro che ai più può sembrare folle, ma che spesso migliora le nostre vite. Assolutamente un film da non perdere, anche questo cercatelo, non sono tantissime le sale, ma nelle più grandi città c'è, è davvero un grandissimo viaggio fra teatro e cinema. Boris, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora cambio della guardia per quanto riguarda la redazione di Fil TV. A inizio trasmissione abbiamo sentito da Cannes Giulio San Giorgio, adesso c'è Claudio Bartolini con noi invece, che è rimasto a Milano perché Giulio va a divertirsi in Croisette, invece Claudio rimane in redazione a chiudere il giornale. Ciao Claudio! Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori. Non lo vuoi dire, ma è così più o meno, no? Dai, diciamo più o meno è così. Più o meno è così, diciamo. Qualcuno in cucina deve stare. Deve pur stare. Allora, partiamo dal game della scorsa settimana e riascoltiamo la clip del film con cui avevamo giocato. Eravamo al limite della sanità mentale. Come se fossimo apparizioni, fantasmi. Si trattava di Heart of the Sea, il film dell'inizio di questa stagione che aveva raccontato le gesta di, insomma, di quella che può essere stata la creazione poi di Moby Dick, del racconto che sarebbe stato alla base poi per Melville della scrittura di uno dei romanzi di formazione più belli e più importanti di tutti i tempi. Lo hanno indovinato per primi e si portano a casa il Blu-ray Giovanni De Benedictis di Bari e Luca Tajuti di Napoli, due nostri ascoltatori del sud che vincono il Blu-ray di Heart of the Sea, che ci facciamo raccontare appunto da Claudio. Claudio, al di là del film, molto bello, cosa c'è in questa edizione Blu-ray? Ma il Blu-ray innanzitutto è imprescindibile dalle considerazioni che si possono fare sulla qualità del film, perché è un Blu-ray particolarmente valido dal punto di vista tecnico, quindi il comparto audio-video assolutamente d'eccezione, e spero insomma che gli ascoltatori posseggano un impianto home theater adeguato, altrimenti il consiglio è di condividere questa visione con amici in un impianto appunto che renda giustizia a questa straordinaria edizione. Un contenuto speciale su tutti, lo speciale su Ron Howard, Captain's Log, ovvero un approfondimento sul film, su ciò che vi è dietro le quinte di questo colossal nautico, davvero dalla fortissima presa visiva e dal fortissimo impatto scenico. E allora, questo era il nostro game della scorsa settimana. Andiamo subito a dare un'occhiata invece ai film che vi segnaliamo dalle TV in chiaro del palinsesto della prossima settimana, cominciando da mercoledì 18 maggio, dove su Iris alle 9:10 del mattino c'è un film che ha segnato un'importante tappa del racconto dell'apartheid al cinema, ovvero Un'arida stagione bianca. Sì, un film politico innanzitutto, un film realizzato in anni in cui si poteva anche un po' calcare la mano su certe dicotomie anche abbastanza manieriste tra politicanti senza scrupoli e invece un avvocato particolarmente votato alla causa umanitaria, con ogni mezzo possibile Donald Sutherland, peraltro in una delle sue più grandi interpretazioni degli anni Ottanta, smaschera un fenomeno che è quello del razzismo in America col piglio giusto, in sottorecitazione, agendo sempre con lo sguardo ancora prima che con il corpo. Compare anche Marlon Brando in un cameo, in uno tra gli ultimi camei, diciamo, d'autore dello straordinario attore, nei panni di un avvocato che in tribunale insomma arringa le folle mostrando il suo immortale primo piano. Mercoledì 19 maggio su Iris, sempre però alle 21, è la volta di un film recente ma fra i più riusciti forse, di Giuseppe Tornatore, La sconosciuta. La sconosciuta è un film che rivaluta e riporta in auge la grande tradizione del thriller italiano, prendendo a prestito dagli anni 70 e dagli 80 certe consuetudini, certe ambientazioni, certe visioni del genere che vanno al di là delle abitudini registiche di un nome come Tornatore, abituato forse più al campo aperto, all'ampio respiro della grande narrazione. Si stringono, l'obiettivo di Tornatore si stringe un po' alla Polanski anche, guarda Hitchcock, guarda Polanski, nell'intrecciare le vicende private, thrilling, di una donna delle pulizie immigrata ucraina e la grande storia del fenomeno migratorio, dello sfruttamento dell'immigrazione. Abbiamo un Michele Placido rasato, dalla testa rasata, particolarmente inquietante, un film che non lesina in violenza soprattutto verso la fine, ma che nello stesso tempo scava molto bene in modo, potremmo dire, psicothriller nelle personalità di tutti coloro che agiscono in questo microcosmo sordido che è un condominio, e anche in questo il richiamo Polanski è piuttosto evidente. E allora ricordiamo ancora l'appuntamento con La sconosciuta di Tornatore su Iris alle 21 di mercoledì 19 maggio. Grazie Claudio Bartolini e gli amici di Film TV. Grazie a voi, grazie Franco, un saluto a tutti. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, come ci raccontano le note della sigla. Appuntamento a sabato prossimo, sempre qui su Radio 24 alle 18, con tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea.